Sulle pagine cosiddette culturali del Corriere della Sera sta prendendo piede uno strano giochino per intellettuali, in cui ciascuno è chiamato a scegliere una parola del nostro secolo e, argomentando la scelta, a proporne l'eliminazione. C'è già stato il caso di chi ha proposto l'eliminazione di massa, di modernità, di fascismo e di bioetica. Ovviamente il giochino è scemo e particolarmente infido, forse accolto con troppo zelo da intellettuali che evidentemente hanno riflettuto poco su cosa questo giochino presuppone. Innanzitutto va detto che, come spesso capita quando l'oggetto del discorso è il linguaggio stesso, non si comprende bene neppure di cosa si stia parlando. Né massa, di cui Leopardi parla come di un neologismo, né modernità, che nell'ambito della Chiesa Cattolica fu molto usato nella seconda metà del secolo scorso, e né fascismo sono parole del Novecento. Le prime due, massa e modernità, nonostante Leopardi e Pio X, le si trova più o meno già in Dante, e la terza, fascismo, la trovo in espressioni già ben note almeno subito dopo il quinto congresso dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, più celebrata sbrigativamente come Internazionale, congresso che si è svolto all'Aia nel 1872. Marx era riuscito ad espellere il detestato Bakunin e altri libertari dall'organizzazione, mentre Bakunin se la doveva vedere anche con i mazziniani, che non lo detestavano di meno. In Italia, a dimostrazione del successo dei seguaci di Bakunin, incontro i mazziniani, nacquero allora numerosi i fasci operai anarchici. Il termine lo si ritrova poi nel 1914, allorché alcuni fasci d'Azione Rivoluzionaria propagandavano l'interventismo, e infine a guerra chiusa nel 19 in quei fasci di combattimento che Mussolini fondò sperando che lo portassero al potere, cosa che anche e soprattutto con parecchie spinte altrui più o meno puntualmente avvenne. Quindi di sicuro il termine, anche volendolo limitare al suo ultimo significato, volendo cioè trascurare l'antico significato latino, peraltro tuttora in uso, di una quantità di oggetti di forma allungata di solito tenuti assieme, fascio, allora il termine è databile anteriormente all'inizio del nostro secolo. La stessa bioetica, che ha un primo sapore di novità, è palesemente il risultato dell'unione di due parole vecchie quanto al mondo, e i problemi che designa sono ben noti da tempo. Quando Aristotele pretende di dimostrare che la donna è un animale privo di anima, lo fa con i suoi strumenti di biologo, ed è difficile non pensare che sotto la sua affermazione non ci siano assunzioni di ordine etico. Poi c'è la vecchia questione di tutti i legiferanti in materia di parole. Giustamente sono sempre andati incontro a penosi fallimenti, ma ciò nonostante insistono. Al sistema filosofico di Berkeley era scomoda la parola sostanza, e dunque il vescovo della diocesi irlandese di Cloyne ne propose l'abolizione, almeno dal 1710. Constatare come è andata a finire. A Mussolini non piaceva facchino, perché era parola derivata dal francese, allora impose la parola pondifero, andare in una stazione ferroviaria e verificare il successo che ha ottenuto. Con le medesime pive nel sacco sono rimasti molti di coloro che nella lunga storia delle idee hanno pensato che il bene e il male dei propri simili dipendessero da questa o da quest'altra parola. A me le parole in quanto tali non spaventano, quanto invece le strutture di pensiero e di linguaggio in cui queste parole sono inserite. Sotto la pretesa abolizionista della parola c'è sempre una forma di becero autoritarismo, anche quando si tenta di occultarlo, come fanno oggi i nostri intellettuali di regime, tramite la scusa di voler abolire parole che farebbero parte di gerghi che coprono interessi ideologici. in nome quindi di una pura neutralità, si spaccia la strana idea che esisterebbe un vocabolario pulito ed asettico, di pronto uso in questa nostra attualità altrettanto pulita ed asettica. Invece, per esempio, non è abolendo la parola fascismo che il contenuto politico del nostro Stato sia perciò stesso meno fascista di quello che è. Ogni parola sorge per designare operazioni mentali che non sono mai gratuite. Se vengono svolte un motivo ci sarà e saranno pur sempre l'espressione del particolare punto di vista di qualcuno. A volte rimangono di uno o di pochi e le parole scelte per designarle scompaiono alla svelta. E a volte, come in un'epidemia, operazioni mentali e parole scelte per esprimerle si estendono, si replicano con la velocità del vento e diventano patrimoni ampiamente condivisi. Ma alla loro base c'è una scelta di qualcuno. E questa scelta significa che qualcosa ha avuto gli onori di essere percepita, di essere semantizzata, diventare parola, mentre qualcos'altro no. E in questo senso nessuna parola può dirsi meno carica di ideologia di un'altra, più innocente di un'altra. Il 21 dicembre del 1976, il Corriere della Sera, a 4 giorni dall'attentato in Piazza Arnaldo, riferiva che i carabinieri e la polizia percorrono piste opposte sulla bomba di Brescia. Sotto questo titolo era possibile leggere un sottotitolo in cui si diceva che i militari sono convinti che i dinamitardi devono essere ricercati negli ambienti neofascisti. Gli agenti invece, prosegue il sottotitolo, gli agenti invece indagano fra i terroristi non neri. Non neri, ben inteso, non dice rossi, che in quell'epoca, come prima e come dopo, designava la pista considerata opposta a quella nera. Non rossi, no. Eravamo ormai in un momento in cui semplicemente nominare l'eventualità di una bomba di provenienza comunista non era né elegante né opportuno. I taciti accordi di potere non lo consentivano. Qualche anno prima lo stesso giornale avrebbe forse parlato di terroristi rossi e non rossi. L'arte dell'eufemismo, per definizione, non può conoscere vergogna. Nei giorni scorsi, dopo mesi di ovvie rivelazioni sullo scandaloso modo con cui il mondo dello sport elude sistematicamente, direi per autentica vocazione, almeno da quando sport e spettacolo sono diventati indistinguibili, elude per autentica vocazione i controlli antidoping, ovviamente, giornali e addetti ai lavori si sono dati da fare per ridurre la materia del contendere, visto che non si può proprio eliminare, ridurla a materia incomprensibile e indecidibile. Più o meno come hanno fatto i nostri governanti nei confronti della magistratura per mantenere fra gli agi tutti i ladri che vanno sotto il nome di classe politica. Non si parla più di atleti negativi o positivi alle analisi di antidoping, ma di atleti negativi o non negativi, con il che la morale di chi comanda è salva. Questi sono i metodi moderni per la domesticazione della massa e questo è quel che aveva tentato e neppure era riuscito ad essere il fascismo. Questo fa bene il paio, peraltro, con quella bioetica che o è l'esito di una contraddizione in termini, perché se qualcosa è categorizzabile come biologico non può averci a che fare con l'etica, o è l'affermazione della volontà di qualcuno su quella di qualcun altro, prevaricazione e violenza. Più che condurre al patibolo della storia, alle parole, dunque, prima che sia troppo tardi, occorrerebbe portarci alla svelta chi ne fa questo cattivo uso.